Deborah, ok, andiamo bene, dai, Siamo guardami. pronte per partire? Respiriamo. Beh, di pancia, Di eh? pancia, non con i polmoni. Ombelico mobile, Sì, ok, eh? d'accordo. Sorridiamo. Colazione fatta? Io sì, Abbondante? molto, Se per no, non si carburare. carbura. Perfetto. Sei pronta? Dai, andrà bene, Via! bene, bene. 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1, via! Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Входит за рамки гуманитарных проектов. Накануне из Италии вернулась официальная делегация нашей страны на берегу Средиземного моря. E questa che lingua è? È russo, Deborah. Insieme al cinese e all'arabo è uno degli idiomi del futuro. Tra i 25 e i 40 anni vanno tutti a lezione, quindi potresti impararla anche tu. Io sono già fuori età, scusami. No. Faccio anche un po' fatica a ricordare la lista della spesa. Imparare cose nuove a questa età è dura, Nicoletta, sai? Sì, hai ragione. Lo dici a me. Costa, ma rende, perché il nostro cervello, per stare bene, ha bisogno sempre di nuovi stimoli. Ad esempio una lingua. Ma non solo, tu hai imparato lo zumba, va benissimo. E la memoria, ad esempio, va allenata un po' come il muscolo, no? Sì, vabbè, quale sennò... muscolo stai parlando? Eh? Allora, andiamo alle cose serie. 800 24 00 24, se come me, perché Nicoletta sostiene che ne abbia bisogno, volete fare un check della vostra memoria, allenarla e mantenere il cervello giovane e attivo. Ne parliamo tra poco, quindi iniziate a chiamare, ma potete come sempre scriverci al 349-238-6666 per non i vostri solo, sms. Esatto, non dimenticate che potete seguirci anche sui social network, su Facebook e su Twitter, trovate le nuove pagine di Cuore Denari. E a proposito di memoria, se siete tipi che se la legano sempre al dito, se litigate spesso, e capita, Nicoletta, tu lo sai, in condominio, con i per cosa? Per il cane? Con i parenti per le questioni di eredità, con la banca, l'assicurazione, sappiate che prima di andare in tribunale dovete trovarvi un pacificatore. Noi ne parleremo a partire dalle 11.45, per cui se avete una lite in corso ce la facciamo raccontare dai nostri ascoltatori. Certo, chiamate il nostro numero verde, ma vedi, vedi che poi dici, ma tu hai bisogno di una allenamento alla memoria perché ti stavi dimenticando di un appuntamento molto importante, almeno per me. Sì, è il tuo primo giorno di scuola, la scuola di risparmio. Mandiamo Nicoletta a scuola di risparmio e tutto ciò che riguarda i soldi, da oggi fondi, investimenti, obbligazioni, non avranno più segreti, non solo per Nicoletta, ma anche per chi vuole fare l'investimento giusto. Allora, a me scoppia già la testa, ma noi rimaniamo tranquilli qua e sereni. Perché... stabili, perché ricordiamo ai nostri ascoltatori che il programma è nuovo, Cuore Denari, ma i temi... Le conduttrici sono? Sono le stesse. Stavo pensando vecchie, vecchie, ma no, vabbè, ma per modo di dire. Si mantengono benissimo, i temi di essere e benessere di Salvadanaio non scompaiono, ma noi li racconteremo insieme. Ciao, sono Alessandro Del Piero. Io bevo Oliveto, acqua della salute. Vi presenta... essere e benessere. Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. E attenzione. Siamo alla prima puntata di Cuore e Denari. Seguiteci quindi con attenzione, ben concentrati e prendete il ritmo. Qua in studio con noi il professor Giampaolo Perna, psichiatra e direttore del Dipartimento di Neuroscienze Cliniche alla Casa di Cura San Benedetto Menni ad Albese Concassano. Buongiorno! Buongiorno a tutti e bentrovati. Russo, arabo, cinese, senza tralasciare l'inglese, due meglio di una e tre è meglio di due. Un gran numero di studi scientifici ha dimostrato che parlare più di una lingua, professore, rende il cervello più flessibile, aiuta a elaborare le informazioni più velocemente. Insomma, studiare le lingue potenzia le nostre capacità cognitive e, cosa importante, rallenta la progressione di malattie degenerative. E quindi non ci resta che imparare. Voi quante lingue parlate? Lo chiediamo ai nostri ascoltatori. Vi siete fermati o ne state imparando una nuova? Raccontatecelo all'800 24 00 24. Beh, innanzitutto ricordiamoci che le due componenti dell'imparare una lingua che sono importanti per il cervello sono, da una parte, la stimolazione di cose nuove, parole nuove da imparare, detti nuovi e cose da comprendere in maniera differente, persino dal punto di vista culturale. Il secondo aspetto è la ripetitività. Il fatto che noi siamo costretti a ripetere continuamente fa sì che imparare una lingua talvolta diventa come fosse un mantra e quindi stimola il nostro cervello continuamente. Ma professor Perna, parliamo di lingue, ma parliamo e quindi che impegnano il nostro cervello a mandare a memoria parole, costrutti, ma è necessario fare questo sforzo e per il nostro cervello vale anche imparare ad esempio un ballo, cioè tango contro russo, chi vince? Ma io direi tango con un istruttore russo, diciamo così. Mi posso iscrivere a questo corso? Dai. Indubbiamente sono entrambe componenti molto molto importanti, quindi quella sia motoria, cioè muovere il corpo continuamente e agire, però ovviamente la stimolazione mentale è molto importante, quindi in qualche maniera se ascoltate della musica in una certa lingua che state imparando e insieme ballate può essere un modo per stimolare il cervello a recepire meglio questo. Naturalmente si fa fatica perché imparare nuove cose costa. Costa anche dal punto di vista economico, però imparare una lingua non è importante soltanto per tenere in allenamento, come si diceva fino a pochi minuti fa, in allenamento appunto il nostro cervello, perché questa è una cosa fondamentale anche per la ricerca del lavoro e non solo se si cerca un lavoro oltre confine. Per studiare al meglio una lingua straniera, soprattutto quando non si ha più l'età come me in cui la si impara a scuola, serve frequentare un corso di un livello più o meno alto ed è importante soprattutto ottenere un attestato. E non c'è solo la fatica per la memoria e per l'allenamento mentale, il portafoglio, cara Nicoletta, non resta indenne, allora abbiamo dato un'occhiata ai prezzi standard necessari per iscriversi da privatisti ai certificati Cambridge per l'inglese. Ad esempio, questi sono tra i più conosciuti. Si va dai circa 100 euro per il chi o per il PET, qua la mia pronuncia, spero che il professor Perna appunto mi... Lui tra l'altro è veramente madrelingua inglese, quindi per mi perdonerà. Il Preliminary English Test, il primo livello, costa fino a 100 euro, dicevamo. Poi per il First c'è un prezzo di circa 200 euro, per i livelli superiori, naturalmente, quindi l'avanzato, si possono superare questo budget di 200 euro. E questo solo per l'iscrizione, poi ognuno di noi può scegliere di investire un po' di risparmi in un corso, per esempio in un'ora settimanale di colloqui con un insegnante madrelingua e così via, e qui chiaramente i prezzi sono molto variabili. Però ho scoperto che esiste anche un modo molto particolare per imparare le lingue gratuitamente e stando comodamente seduti davanti al computer. È vero, a casa propria. È una novità molto interessante, si stanno moltiplicando i siti dedicati allo scambio linguistico. C'è un mio amico per esempio che sta imparando il greco, si è iscritto a questo sito che si chiama www.conversationexchange.com, si entra praticamente in una community, ci si iscrive, si entra in contatto con persone che provengono da tutto il mondo interessate come noi ad apprendere una lingua. Quindi noi insegniamo l'italiano a questa persona che a sua volta ci insegna la sua lingua di origine. Professor Perna, torniamo al nostro cervello, torniamo agli stimoli che possiamo dare a questo organo così prezioso. Che risente un po' dell'età. Deborah ci ha sistemati, che ci ha suggerito un modo risparmioso per apprendere le lingue, ma imparare, lo sappiamo, costa fatica, e questo è un indicatore importante, mi piacerebbe sottolinearlo, e cioè la facilità o la difficoltà che abbiamo nel fare e apprendere nuove cose è indicativo della salute e della buona forma del nostro cervello. Allora professore, quanta fatica è fisiologica, quando invece diventa segnale di un problema? Io penso che sia necessario informare i nostri ascoltatori di alcuni dettagli. Ma innanzitutto dipende da quanto siamo allenati, pensiamo al corpo, no? Se noi stiamo fermi per lungo tempo, quindi se noi per lungo tempo non abbiamo esercitato una lingua, è chiaro che riprendere risulta essere per esempio molto molto difficile, quindi la fase iniziale, la fatica è una cosa molto molto normale. Certamente se passano i mesi e continuiamo a far fatica, allora vuol dire che c'è qualcosa che ci sta bloccando. Può essere una cosa banale, tipo la mancanza di interesse, io sono costretto a imparare una lingua perché devo per lavoro, però non mi interessa, allora faccio più fatica, no? Però può essere anche che abbiamo in qualche maniera una difficoltà perché il nostro cervello non riesce a recepirlo correttamente. Io direi, se dopo 3 mesi di allenamento e imparare una lingua vediamo che non iniziamo a essere più sciolti, bisogna in qualche maniera porsi qualche domanda. Possiamo capire però, professore, come sta il nostro cervello? Ci sono dei test, ad esempio, utili per misurare la sua efficienza e anche la sua età? E quando è il caso di fare un check-up? Allora, ci sono molti. C'è questo. Allora, sicuramente ci sono molti test, i cosiddetti test neuropsicologici, si chiamano così, servono per valutare le funzioni del nostro cervello, quindi valutano memoria, attenzione, concentrazione, ma anche la capacità decisionale. Sono una batteria di test, credo che in molti centri dove si tratta la psicologia questi tipi di test sono comuni, sono validati scientificamente e ci permettono di capire se il nostro cervello è efficiente o meno. quando dobbiamo allarmarci? Quando in qualche maniera i piccoli deficit che tutti noi abbiamo, che non sono deficit, sono mancanze, sono dimenticanze, disattenzioni, iniziano a influenzare la qualità della nostra vita. Cioè se io inizio a dimenticarmi le chiavi troppo spesso, sì, e allora devo preoccuparmi. Se capita una volta, voglio dire, posso essere stato disattento. Se inizio a dimenticarmi i nomi delle persone troppo frequentemente. Quindi è la frequenza e quanto influenza la nostra vita che deve porci un punto di domanda. Una tantum. Siamo stati ansiosi, preoccupati, ma in realtà non è un vero pericolo. Che cosa state imparando di nuovo e quanta fatica fate? Lingue, ma non solo, all'800 24 00 24, nella puntata di oggi, insieme ai nostri esperti e naturalmente con la mia compagna Deborah, cercheremo di aiutarvi e aiutare soprattutto prima di tutti noi. Anche noi stiamo iniziando a fare qualche cosa di nuovo, ci cimentiamo in Cuore Denari. E finiremo anche per farla bene questa trasmissione. E certo, grande impegno e passione, ma nel corso della trasmissione, dopo i mercati, parleremo anche di alimentazione, perché ci sono degli alimenti che hanno una funzione protettiva nei confronti del nostro cervello. Quindi 800 24 00 24, ditemi come sentite la fatica a livello mentale e soprattutto raccontateci anche che cosa fate per proteggere il vostro cervello. I nostri esperti, come sempre, come d'abitudine, sono a vostra disposizione, così come il nostro numero verde per intervenire in diretta 800 24 00 24. Professore, Mensana in corpore sano sottolinea che c'è uno stretto legame tra mente e corpo, ma c'è di più. In questa fase credo sia raccolta un'importante verità: la salute del cervello dipende dalla salute generale dell'organismo. Vi sono fattori infatti protettivi e fattori di rischio. Ad esempio, sappiamo che per stare bene, per invecchiare bene, il nostro cervello ha bisogno di essere ben ossigenato e, a proposito, ben nutrito. Infatti bisogna stare molto attenti anche a fattori semplici, come avere la pressione troppo alta piuttosto che avere un colesterolo alto. Questi sono fattori che minano l'efficienza del nostro corpo e della nostra mente e quindi non ci permettono di funzionare bene. Esempio banale: il cervello funziona bene se è bene irrorato di sangue. È chiaro che se io ho delle arterie che sono intasate di colesterolo, ecco in qualche maniera che mi trovo in difficoltà. Quindi la famosa aterosclerosi è un fattore di rischio molto importante. Noi lo vedremo dopo con il nostro esperto che ci parlerà di alimentazione, ma sicuramente mantenere il corpo efficiente è la prima regola per essere longevi, ma longevi vuol dire avere un cervello che ci accompagna tutta la vita in maniera efficiente. A proposito di fattori di rischio, lei ha citato il colesterolo, c'è anche un legame tra glicemia e salute del cervello, ne abbiamo parlato in una trasmissione ad doc, per cui bisogna tenere sotto controllo anche questo valore, così come il giro vita e la pressione. Perché questi fattori sono importanti? Sono importanti perché condizionano proprio la fluidità del nostro sangue, quindi l'ossigenazione del nostro cervello. Questo è il motivo principale. Dobbiamo ricordarci tutti che accanto alla dieta, che è fondamentale, l'efficienza fisica, cioè l'attività fisica, l'allenamento fisico, è uno dei più importanti protettori del funzionamento cerebrale. Bastano 20 minuti, tre volte alla settimana, fate ciclette, quindi non c'è bisogno di andare in palestra per forza, fatevi una camminata un po' veloce o andate a ballare, ma muovetevi. Muovere il corpo implica un migliorare funzionamento di tutti i sistemi del nostro corpo e quindi del nostro cervello. E voi iniziate pure a chiamare il nostro numero verde, lo state già facendo, vi ringrazio molto. Tra poco sentiamo Marina che ci chiama da Cuneo. 800 24 00 24, che cosa state facendo per tenere allenato il vostro cervello? Ma soprattutto oggi avremo la possibilità di chiarire quei dubbi che a volte ci assalgono, ad esempio non dimentico le chiavi, mi dimentico gli appuntamenti, entro in una stanza e non so come non so cosa tu? Sono andata a fare lo so, allora, perché Nicoletta gliel'ho raccontato, che è la tipica cosa che capita a me, mi ero un po' preoccupata, ma allora insomma, tutti questi segnali cerchiamo di riassumerli e raccontarli ai nostri esperti. Marina, buongiorno da Cuneo, che sta facendo? Che piacere sentirla, è da tanto che la sento, ma non di persona. Grazie Marina, così ci porta buono. Vai Marina. Bene, allora io adoro imparare le lingue, anche solo poco poco, ma fin da bambina. In questo periodo ho intenzione di rispolverare il russo, che ho dimenticato purtroppo, sì, che avevo studiato 14 anni e che ancora 13 anni fa, quando ero stata in Russia, no, anzi 15 anni fa, sì, mi hanno detto che lo parlavo abbastanza bene. Vedi. Parlo bene il greco moderno però me lo continuo a ristudiare tutte le volte e più che posso vado in Grecia. Da bambina ho imparato subito il tedesco perché mio padre, quando andavamo al mare, diceva: guarda, quei bambini così piccoli parlano già tedesco. E dai, erano tedeschi. Certo. E quindi le lingue hanno questa particolarità: le persone che conoscono più di una lingua poi fanno meno fatica a impararne nuove. Professor Perna, lei lo può dire di suo perché lei è bilingue dalla nascita. È vero, infatti fino ai 5 anni non parlavo assolutamente italiano, più soltanto inglese. Ma direi che l'intervento ci dice due cose importanti. Primo, se noi impariamo una lingua, soprattutto quando siamo piccoli, anche se per lungo tempo non ne parliamo, è facile riprendere, un po' come la bicicletta. Una volta imparata io posso star fermo, quindi non sono più capace, ma quando la riprendo rapidamente riparto. Il secondo punto è quello di andare nei paesi dove si parla quella lingua, perché ricordatevi che imparare una lingua non è soltanto imparare delle parole, ma imparare una cultura. Quindi io posso veramente imparare una lingua soltanto quando assorbo anche la cultura del paese. Allora, vorrei leggere qualche sms. Vale parlare dialetto italiano? Lorenzo da Mestre, e ci dice anche che siamo bravissime. Bravo Lorenzo. Meno male, abbiamo bisogno di un po' di incoraggiamento. Suono pianoforte, incredibile la concentrazione necessaria per apprendere. È vero, io credo che però la cosa più importante per apprendere sia quella di fare. Pensiamoci bene, nel pianoforte la cosa importante, anch'io sono pianoforte, ne ho suonato per un 5-6 anni, è quello di muovere correttamente le mani innanzitutto. Se io non lascio andare le mie mani, mi concentro di mente, rischio veramente di non fare quello che devo. A me viene in mente un film bellissimo che era L'ultimo samurai, in cui veniva incoraggiato al concetto di no mente, cioè di lasciare la mente vuota e di lasciare andare avanti il corpo. Così il vero pianista che ha imparato alla fine non pensa, suona. Raffaele ci chiama dalla provincia di Torino, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Senta, io ho dovuto imparare... Vuole dirci in bocca al lupo? Vuole dirci in bocca al lupo? In bocchissimo al lupo. E vai! Bravo Raffaele! Senta, io ho dovuto imparare francese perché sono partito volontario quando avevo 25, adesso ho 51 anni, quando avevo 25 anni sono partito volontario in Burundi e ho dovuto imparare il francese perché non lo sapevo. Sì. L'ho imparato bene, per cui io adesso ho 3 figli. Sì. E all'ultimo figlio mi è venuto in mente di mandarlo in Burundi, no? 8 anni, no? Sì. Di parlare con lui esclusivamente in francese. Sì. E lui come allora, risponde? Lui risponde in italiano. Capisce tutto in francese, sì. Sicuramente dovrà fare uno step in più, passare a rispondermi in francese, ma questo sì. È una cosa che non so come riuscire a fare. Dopodiché io mi sono messo adesso a studiare inglese perché mi sono obbligato a studiare inglese. Come sta andando Raffaele? Fa fatica oppure viene facile? No, mi sono messo da solo con le cuffiette, con i CD, il libro davanti, la sera me la passo a studiare inglese, però bello è che gli altri due figli il francese lo capiscono perché parlandolo in casa lo capiscono perfettamente. Io poi comunico con una mia amica in Inghilterra tramite Skype. Vede, come i siti che ha suggerito anche, sono delle formule. Insomma, venire a casa sua è una bella sfida. Un viaggio cosmopolita. Sì, la cosa però che fa veramente arrabbiare è il fatto che i figli inizino inglese a studiare alla materna, arrivano in terza media e non sono capaci a parlare inglese. Allora, va bene, di questo una riflessione ci ha dato un bello spunto per una prossima puntata. Intanto ringraziamo Raffaele che ci ha chiamato da Torino. Voi continuate a chiamarci, soprattutto se vi riconoscete in alcuni dei fattori di rischio che ha sottolineato il professor Perna. Cercheremo per voi l'allenamento giusto, ma abbiamo anche una domanda per voi del professor Perna. Qua non so se può stimolare quale funzione cognitiva o solo è una domanda per conoscere più da vicino il nostro cervello. Si inizia anche così? Una domanda semplice si fa per dire, ma qual è la parte del nostro cervello che è più umana, che più ci distingue dagli animali? Questo è molto importante perché noi diciamo di essere superiori agli animali, poi questo va provato fino in fondo, ma c'è una parte del cervello che è particolarmente speciale. Ai primi due ascoltatori che risponderanno a questa domanda, noi regaleremo oggi due biglietti di una mostra molto interessante, Il cervello, istruzioni per l'uso, una mostra che si terrà, partirà il 18 ottobre al Museo di Storia Naturale di Milano, naturalmente, per cui se i due ascoltatori che dovessero vincere, dovessero chiamare appunto anche da molto lontano, sappiate che c'è tempo fino al 13 aprile per visitarla. È una mostra organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, da Codice, Idee per la Cultura e 24 Ore Cultura, Gruppo 24 Ore. È a cura di Rob De Salle, un ricercatore americano, ma c'è chiaramente un adattamento italiano. È una mostra molto interessante, articolata in 7 sezioni, che ci racconterà come funziona la complessa struttura del nostro cervello. Si esce che si è anche più intelligenti. Apertura mentale. Dobbiamo visitarla. 800 24 00 24. Dopo i mercati, che ha iniziato a chiamarci soprattutto per capire che cosa significa quando entriamo in una stanza e non sappiamo perché ci ritroviamo lì, oppure se non ricordate date appuntamenti anche importanti, oppure se capita di dire una parola per un'altra, avere la parola sulla punta della lingua e non cade di lì. Noi vi aspettiamo soprattutto con i consigli del professor Perna e dei nostri esperti. Cuore e denari. E siamo tornati insieme. Ancora buongiorno a tutti da Deborah Rosciani e da Nicoletta Carbone. E qua in studio con noi il professor Perna. Stiamo cercando di rendere giovane il nostro cervello. Abbiamo anche una domanda. L'avete memorizzata? 800 24 00 24. Qual è la domanda che ci ha fatto il professor Perna? Vogliamo dare un aiutino? Lasciamo così. Lasciamola così. Ah, ecco, proprio questo li mettete, è già un test li per la vostra memoria. Più che la memoria, la vostra attenzione, vero? Sì, l'attenzione è molto importante. Ricordatevi che per memorizzare bene dovete essere attenti ed essere interessati. Sono le due cose principali. Allora, che cos'è che ci rende particolarmente attenti e interessati? Qualcosa che ci emoziona. Facciamo un esempio concreto. Vi Lei ricordate? È emozionato di Io stare sono qua con me. Certo, con voi due, ovviamente. Bravo. Se provate a pensare dove eravate quando è avvenuto l'attacco alle Torri Gemelle. Io credo che tutti noi ce lo ricordiamo. Sì. Se ci chiediamo dove eravamo il giorno prima, io credo che quasi nessuno, a meno che non abbia avuto un evento molto importante, se lo ricorda. Quindi vedete come un'emozione forte imprime nella memoria quello che succede, i fatti che sono vicini. Quindi le emozioni sono una cosa centrale. Quando dovete imparare qualche cosa, se siete coinvolti emotivamente, avete molte più chance, anche per le lingue. Se io devo imparare una lingua perché la mia amata parla una lingua diversa, avrò tutta un'altra forza. Se devo farlo perché sono costretto, forse faccio più fatica. Quindi, come dire, il primo suggerimento è quello di, per imparare qualcosa di nuovo, cercare qualcosa che ci piace molto. Assolutamente sì. Vi do un punto, per giusto che siamo una trasmissione non solo sul benessere. Un consiglio per imparare le lingue è anche quello di vedere i film, e oggi potete selezionare la lingua. Quindi vedete i film in lingua originale con i sottotitoli in italiano. Io credo che questo sia un piccolo esercizio che ci permette totalmente gratuitamente di fare dei passi avanti. Professore, abbiamo anticipato che avremmo dato la spiegazione di alcuni disturbi, alcuni segnali che spesso ci allarmano e che ci fanno pensare sto perdendo i colpi, banalmente. Ad esempio, quando Deborah viene da me e mi dice sono venuta ma non mi ricordavo più che cosa dovevo dirti, e io faccio uguale con lei. Certo, ci preoccupiamo. Proprio non vediamo l'ora di vederci. No, molto spesso in una vita molto rapida quello che noi perdiamo è l'attenzione in qualche maniera. Un po' di più, quindi siamo disattenti e quindi entriamo improvvisamente e non ci ricordiamo. Direi che se capita una tantum non è assolutamente un problema, se capita frequentemente il consiglio è quello di segnarselo, perché se ci accorgiamo che capita molte volte in una settimana, allora io sarei preoccupato e allora chiederei aiuto. Dimenticare nomi, dati, anniversari, appuntamenti importanti, le chiavi anche banalmente, dove hai parcheggiato la macchina, queste dimenticanze quotidiane. Ma sugli anniversari stavo giusto parlando con mio collega prima e mi diceva, in fin dei conti a me non interessa nulla, per cui me le ricordo male. Ricordiamoci che noi uomini facciamo un po' più fatica, che capita sempre che io Ovviamente sappia uno che gli anniversari delle donne si ricordano. È un problema di sostanza grigia, sostanza bianca? Io direi di no, è un problema di diverso tipo di importanza che si dà a questi eventi, perché l'anniversario è un qualcosa di relazionale molto forte, quindi implica un qualcosa che coinvolge la parte emotiva, che è molto femminile. Noi uomini siamo più orientati, quindi magari ci ricordiamo meglio dei meccanismi, dei numeri precisi, delle date. È stato assegnato il Nobel e questo lo vogliamo anticipare, ne parleremo tra poco con il professor Giuseppe Remuzzi. Andiamo ai nomi. Deborah, una testa. Il Nobel per la medicina, sì, è stato assegnato ad un trio di scienziati, di medici. Il primo è James Rothman. Mi hai lasciato quello difficile. Randy Shechtman. Beh, il terzo non, scherza, Thomas Sadoff. Speriamo di aver pronunciato tutto correttamente, visto che siamo in presenza di un bilingue. E tra poco aggiornamenti, scopriremo esattamente chi sono. Un commento del professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. Andiamo al linguaggio, professor Perna. Non, forse abbiamo pronunciato male i nomi dei vincitori del Nobel di medicina, ma sicuramente ci sono delle parole che a volte non ci vengono. Noi, a me in diretta capita che sì, la lingua ti si... oppure io il dico nome che ho la patata viene. In bocca. Ecco, il nome che no, queste... problemi, come vanno interpretati? Sono delle semplici dimenticanze, quindi anche qui stiamo attenti che molto spesso le persone si spaventano molto, pensano alla demenza o altre cose, perché ogni tanto dimenticano delle parole. No, io credo che un difetto, si dice, di rievocazione delle parole non sia un segnale grave, no? Sia semplicemente il segnale che il nostro cervello ha avuto delle interferenze in quel momento, che sono pensieri, ricordi oppure cose che ci hanno distratto e che non hanno permesso alla parola di raggiungere proprio l'espressione verbale vera e propria. Quindi quella, se capita sporadicamente, va vissuta in maniera molto tranquilla, non va vista come pericolosa. Certo, se è un qualcosa che ostacola sul lavoro o nella vita privata, ci viene fatto notare molto spesso, anche lì un piccolo test lo farei. Faremo una lista, Nicoletta, di tutte le cose che ci dimenticheremo, sì, nel corso di Cuore Denari. Io in un foglietto inizio a fare delle croci. Benissimo. Anzi dei cuori. Dei cuori, facciamo, e tu dei metti... ci metto il dollarone magari. Bravo. Simbolo. Il dollarone. Abbiamo anticipato nel corso della trasmissione che avremmo parlato anche di alimentazione. A tavola non si invecchia, non è solo un modo di dire, ma la ricerca ha dimostrato che ci sono degli alimenti che aiutano il nostro cervello a mantenersi sano, hanno una vera e propria azione preventiva e protettiva. Vi ricordate quando le nostre mamme ci dicevano che il fosforo contenuto nei pesci aiutava a diventare più intelligenti? Bene, adesso c'è qualcosa di più, e a dirlo non sono solo le mamme, ma i risultati di ricerche che l'ospite che abbiamo in linea conosce bene, che è lieto di condividere con noi. Abbiamo il piacere di salutare il dottor Filippo Ongaro, vicepresidente dell'Associazione Medici Italiani Anti-Aging e autore di numerosi libri di successo di cui abbiamo parlato in trasmissione. Buongiorno dottor Ongaro. Buongiorno, buongiorno Nicoletta. Sì, in effetti il cibo comincia ad essere visto un pochino come una droga per gli effetti che ha sul cervello, con dei connotati positivi e anche negativi. Diciamo che è molto discusso oggi il cibo come ansiolitico, come compenso piacevole allo stress della vita, che d'altra parte porta molti a mangiare male e troppo, ma anche il cibo visto come agente protettivo su molti organi, tra cui anche l'organo più delicato, complesso e anche forse un po' dimenticato, che è appunto il cervello. Chiaramente, come abbiamo sempre detto, il cibo non basta da solo, va in qualche modo sfruttato al massimo nel contesto di una vita sana in generale, quindi associato a attività fisica, gestione dello stress, diventa certamente un'arma potente anche per far funzionare al meglio il cervello. Quindi, dottor Ongaro, cibo, esercizio e recupero sono cose familiari di cui abbiamo parlato spesso, ma nel caso degli alimenti, quali sono quelli che permettono al cervello di funzionare al meglio, che lo mantengono giovane, possiamo dire così? Ma sì, certo, possiamo dire così. Avete citato il fosforo nel pesce, ovviamente il pesce va citato anche per il contenuto di acidi grassi omega 3, in particolare uno, l'acido docoso esanoico, che è siglato come DHA, molto importante perché ha una capacità di far funzionare al meglio le membrane cellulari anche nei neuroni. Poi tutti gli alimenti che hanno delle proprietà antinfiammatorie, anche per esempio il nostro olio d'oliva o i frutti di bosco, o alcune bacche che hanno proprietà antiossidanti, quindi riducono il rischio di danno da radicali liberi, l'avocado, che anche questo fornisce acidi grassi buoni, contribuisce ad abbassare la pressione, che è un fattore di rischio anche per le malattie del cervello, le noci, la frutta secca ricca di vitamine, in particolare la vitamina E, i cereali integrali che sono ricchi di vitamina B, insomma ce ne sono tanti. Una cosa che va notata è che poi alla fine non è che sono degli alimenti che hanno una caratteristica di specificità nei confronti del cervello, sono gli alimenti che ci fanno bene in generale, fanno bene al cervello così come al cuore e a tanti altri organi. Parleremo naturalmente magari in una puntata ad hoc in cui invito il professor Perna e invito già il dottor Ongaro di stress, quanto lo stress logori anche il nostro cervello. Parliamo non dello stress buono, quello che ci aiuta, ci dà lo sprint, come lo stress che stiamo vivendo in questi istanti, ecco, Deborah ed io, esatto. Ma voi ci state sostenendo, grazie. Ma dottor Ongaro, io vorrei che lei ci desse una specie di compitino da fare, proprio lavorando magari per una settimana con dei piccoli cambiamenti nella nostra dieta quotidiana. Facciamo la settimana del cervello, ecco. Ok, proviamo. Allora possiamo dire, non so, alcune piccole cose. Intanto introdurre una porzione di frutti di bosco a colazione. Vanno bene anche surgelati nelle stagioni in cui ovviamente non ci sono quelli freschi. Sì. Poi potremmo utilizzare delle bacche un po' particolari, come le bacche di goji, per esempio, molto popolari oggi per le capacità antiossidanti che hanno, come snack di metà mattina, ne basta una piccola manciata. Utilizzare un pane integrale con un po' di avocado sopra, per esempio, ricco di grassi buoni, come avevo detto prima, che aiutano sia il cuore e il cervello a metà pomeriggio, e a cena abbondare con il pesce azzurro e le verdure, magari cotte al vapore, per avere sia gli acidi grassi che le proteine necessarie. Poi aggiungerei 5 minuti di rilassamento consapevole, di riflessione consapevole sulla giornata, su quello che si è fatto, con un'attitudine positiva prima di andare a letto. Provate una settimana, poi no, ci assolutamente. Dottor Ongaro, ho una domanda per lei. Se sì. Mi offro volontaria e seguo scrupolosamente queste indicazioni che ci ha dato per tutta la settimana, entro sabato saprò qualche parola di russo? La saprò pronunciare correttamente? Io devo dire la verità che ho provato a imparare il russo quando lavoravo con gli astronauti. E non c'è bacca di goji che tenga, ecco, perfetto. No, non, comunque è molto interessante. Né bacche né avocado. Comunque no. Noi diamo, allora, Deborah ed io mi offro come volontaria. Benissimo, e poi sentiremo i risultati a cui è arrivata Deborah fra una settimana, commentata dal dottor Ongaro. Sì, se trovo le bacche di goji, ma sono vediamo, facili come. Da trovare, molto dottor bene. Ongaro. Si trovano nei facile negozi, trovare, sì, in sì, tutti sì, i negozi sì, di naturali. Sono molto famose. Ormai. Esatto, si vede una, che non le ho mai cercate. Una manciatina solo. Dottor Ongaro, grazie, grazie per essere stato con noi. Grazie. Buonissima giornata. Professor Perna, lei si ferma? Io mi fermo ancora un po'. Dai, noi ci fermiamo allora e andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Ma dopo, ricordate? Subito dopo parleremo anche dei nostri litigi in condominio, con la banca, con le assicurazioni. Vi aiuteremo a risolvere in una maniera alternativa piuttosto che andare in tribunale, e andremo anche con Nicoletta Carbone a Scuola di Risparmio. Cuore e denari. Ed eccoci ritrovati con Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Fino a questo momento abbiamo parlato dell'efficienza del cervello, e chissà che cervello hanno i tre Nobel per la medicina appena proclamati, Nicoletta. Rothman, Schickman e Sudhoff, non so bene la pronuncia, per le loro scoperte sul traffico delle vescicole, che è uno dei principali sistemi di trasporto nelle cellule. Abbiamo il professor Perna che ci aiuta a decifrare questa scoperta. Ma in maniera semplice è ovvio che al di là di quello che viene prodotto, per esempio in un'azienda, è fondamentale che venga trasportato correttamente nel posto giusto. Loro hanno scoperto esattamente come questo accada, che è un principio fondamentale nel funzionamento di tutto il nostro corpo. Ci sono dei momenti però in cui il cervello ci va in fumo, e naturalmente questo ci provoca anche una lite in ogni situazione della vita, in condominio, in banca, con l'assicurazione. Sentiamo un po'. Salva Danaio. So che cosa ho detto! L'hai detto! Sai quello che hai detto! Non so quello che ho detto, ma non volevo dirlo comunque! E invece sì, volevi dire tutto quello che hai detto! Ma certe volte non voglio dire niente quando dico qualcosa! Qualcosa non è mai niente, è sempre qualcosa! La maggior parte delle cose che dico non è niente, è tanto per dire qualcosa! No, voi uomini dite che è tanto per dire qualcosa, solo per evitare di dire qualcosa, ma sapete di dire qualcosa ogni volta che la diciamo dice. Che? Che cosa ho detto? Hai detto a mia madre che tu vorresti un figlio, ma che io non sono pronta! A mia madre! Questo è un film del 2007, si chiama I Love You, e la scena che vi abbiamo proposto è quella del litigio iniziale fra i due protagonisti, una situazione nella quale chissà in quanti si sono riconosciuti, perché il litigio tra partner è il più classico degli esempi. Ma in quante situazioni della nostra vita ci capita di litigare, Nicoletta? Ti capita frequentemente? Ma no, in tu famiglia. Sei un accomodante. Io devo dire che cerco di fermarmi un pochino prima. Sai che ho adottato un po' metodo zen, no? Un metodo zen, però insomma si litiga in famiglia, lo dicevamo, nel condominio, anche in auto. Automobile, e si litiga spesso anche per questioni di denaro. Ma sai qual è la novità, Nicoletta, quella della quale parleremo questa mattina? Che dallo scorso 20 settembre fare pace è diventato obbligatorio, o almeno è diventato obbligatorio provarci. come si magnifica. Fa, lo sai? Ci sono delle figure ben precise che ci accompagnano, ci sono dei passi specifici da seguire, e tutto questo più tardi ce lo racconterà l'ospite che adesso andiamo a salutare, l'avvocato Nicola Soldati, esperto del Sole 24 Ore. Buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie per la sua disponibilità. E allora dalle 12.10 posso già anticipare ai nostri ascoltatori che potranno farle tutte le domande che vogliono per capire come funziona questa nuova mediazione obbligatoria, avvocato Soldati? Certamente sì, a disposizione. Molto bene. Allora, se litigate, se state litigando, 800 24 00 24, ma naturalmente potete scrivere anche l'origine e la causa dei vostri litigi e che tipi siete, se siete molto litigiosi oppure lasciate correre, sulla nostra pagina di Cuore e Denari. Benissimo, tra l'altro ricordo ancora il numero verde 800 24 00 24, ricordo il numero per gli sms 349 238 6666, la mediazione obbligatoria, che è qualcosa di molto complicato, per dire che adesso prima di andare in tribunale possiamo trovare un modo alternativo per risolvere i nostri conflitti con un pacificatore. Altri. Un pacificatore, chiamiamolo così. Nicoletta, No, adesso... sei pronta? Sentito? Sì, io anche. Dammi la manina che ti porta a scuola. Così se sono troppo agitata, lui intervengo. Mi fa. Esatto. Tra l'altro, hai preparato il cestino con la merenda, con il pane integrale e l'avocado? Vedi, allora, pane integrale e avocado per oggi pomeriggio. Ah, stamattina, stamattina erano le bacche di Goji. Le bacche di Goji. Allora, ti porto a scuola, andiamo su. Sì, russo. No, preferiresti imparare il russo, io lo so già. Ti sei già dimenticata che a partire da oggi ti porto a scuola di risparmio? No, lo so, faccio finta, ma lo so. Allora, sappiamo che è un periodo difficile per molte delle famiglie che ci ascoltano. Mettere da parte qualcosa, non possiamo nascondere, sono tanti gli ascoltatori che per la verità ce lo raccontano, è diventato sempre più difficile per molte famiglie che non solo non riescono più a mettere da parte, ma qualche volta devono addirittura anche andare a prelevare da risparmi degli anni passati. Per chi comunque riesce, anche a costo di fare molti sacrifici, a risparmiare, riesce a fare ancora la formichina, è importante che sappia che conservare il proprio denaro semplicemente sotto il materasso a volte può essere un rischio, e il rischio che perdano questi soldi il loro valore. Ecco perché facciamo questo percorso che ci porterà a scoprire in modo semplice, settimana dopo settimana, gli strumenti di investimento e di risparmio. E anche questa, Nicoletta, guarda che è una buona occasione per allenare il cervello, imparare cose nuove ed esercitandoci ad avere sotto controllo i nostri soldini. Io vi darò molto filo da torcere, comunque. Ma sei pronta comunque? Salutiamo allora quello che abbiamo un po' già ribattezzato il nostro professore che ci seguirà in questo cammino, in questo percorso. Saluto e ringrazio per essere con noi Gianni Lupotto, consulente finanziario indipendente che già ci ha aiutato tante volte nel passato a così chiarire un po' i temi della finanza. Lupotto, buongiorno. La devo chiamare professore adesso in questo percorso, ha capito? Va bene, d'accordo. Buongiorno professore, buongiorno. Buongiorno. Gianni Lupotto. Nicoletta per la prima volta si trova ad avere a che fare con un consulente finanziario. Qual è la prima cosa da fare per un risparmiatore che si accinge ad investire i suoi risparmi? La prima cosa è una buona pianificazione iniziale, cioè un check-up, insomma, esattamente come bisogna fare periodicamente per controllare il proprio stato di salute, e questo di certo a Nicoletta non sfugge. Insomma, professore, lei mi sta dicendo è come fare una visita di controllo dal proprio medico. Esattamente, po' come andare dal medico, anzi di più, è come andare per la prima volta da un nuovo medico se la pianificazione non è mai stata fatta. Si parte sempre con un'intervista, e in particolare un'intervista di pianificazione finanziaria, che ora inizierei a simulare proprio con lei, Nicoletta. E proprio perché a partire da queste interviste mi reintroduco in questa vostra conversazione, che si costruiscono nel modo migliore i portafogli di investimento. Bisogna tenere conto della situazione e delle esigenze che emergono rispetto alla persona con la quale si deve interloquire, giusto Lupotto? È proprio così, e questo vale sia che si disponga di un grande patrimonio, sia che lo si debba ancora costruire, e lo vedremo passo dopo passo. D'accordo. Sei pronta? Sì. Io sono prontissima, poi ho anche il professor Perna. Però dobbiamo prenderci adesso un po' di pausa, Lupotto deve avere un po' di pazienza, lasciamo sbollire Nicoletta in questa sua preoccupazione, ci risentiamo alle 12.10, d'accordo? Mi raccomando professore, puntuale. Puntuale. Cuore e denari. E siamo ritornati in diretta con Cuore e Denari con Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone. Ancora buongiorno a tutti. Siamo ritornati intanto a Scuola di Risparmio. Vi stiamo raccontando e spiegando come si fa una buona pianificazione finanziaria. Sappiamo bene che i risparmi oggi sono sempre meno, però è importante proprio per questo conservarli e proteggerli al meglio. Più tardi con il dottor Gianni Lupotto, consulente finanziario, vi insegneremo come si fa. Prima di tutto questo però parleremo anche di mediazione, l'obbligatorietà nel fare pace in certe controversie, però Nicoletta Carbone, abbiamo naturalmente i nostri Nobel che chiedono giustizia. Esatto, il Nobel per la medicina, Rotman, Scheckman e Sudoff. In linea con noi abbiamo il piacere di avere per un commento il professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. Buongiorno professore. Buongiorno, siamo tutti fatti di cellule. Le cellule comunicano con l'esterno, l'esterno comunica con l'interno delle cellule. Questo avviene attraverso delle piccole strutture, dei piccoli contenitori che si chiamano vescicole, che prendono gli ormoni, se li internalizzano, li portano fuori, li portano dentro quanto serve, ormoni come l'ormone della crescita per esempio, sostanze come il colesterolo che viaggiano dentro e fuori le nostre cellule, oppure le trasmissioni nervose tra una cellula e l'altra vengono fatte attraverso vescicole. Una volta sapevamo la forma di queste vescicole, come sono fatte, come si muovono. Adesso sappiamo il perché, come funzionano, quali sono i geni che controllano la loro funzione. In pratica è la funzione della vita che è regolata da questi geni, e il premio Nobel l'hanno dato loro per quello. Anche le forme di vita primitiva incominciavano sulla Terra con delle vescicole che comunicavano all'interno con l'interno e l'esterno attraverso dei lipidi, proprio come il colesterolo. Ecco, si sapeva tanto, adesso si sa davvero come queste cose funzionano. Una piccola nota finale molto particolare che ci sta a cuore: uno dei due, dei tre, Thomas Sudoff, si è formato nell'Università del Texas, dove già il dottor Brown e il dottor Goldstein avevano avuto il premio Nobel per aver capito i recettori del colesterolo, per aver scoperto i recettori del colesterolo. In quell'università di Texas c'è un grande nefrologo, un grande amico dell'Italia, del Mario Negri, di tanti nefrologi italiani, si chiama Don Seldin. Lui il premio Nobel non l'ha avuto, ma quattro suoi studenti, adesso sono cinque, sì. Vuol dire che quanti è bravi, poi i giovani possono raggiungere dei traguardi insperati. Grazie professor Remuzzi per essere stato con noi e per questa spiegazione così chiara. No, e poi ho anche capito che Sudoff si pronuncia Sudoff, si pronuncia, quindi un'altra lezione di inglese, e abbiamo allenato il cervello, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare oggi. Grazie professor Remuzzi. Buona giornata. Buona giornata, grazie, presto. Grazie. Allora, andiamo invece alla nostra scuola di risparmio. Posso però prima salutare un ascoltatore che ci ha scritto al 349-238-6666, come in tanti ci state scrivendo, incoraggiando. Gianni da Milano ci dice: io ho cominciato la mia storia con Cuore e Denari, è finita col picche. Gli facciamo il nostro in bocca al lupo, poverino, e naturalmente gli auguriamo che tutto si risolva al meglio. Gianni Lupotto, ritornato con noi? Certo, eccomi qua. È pronto per questa interrogazione, anzi no, questa chiacchierata serena con Nicoletta Carbone, a cui deve spiegare come si fa una buona pianificazione finanziaria. Esatto, e quindi eravamo quasi pronti per partire. Siamo pronti? Con la prima intervista. Ok, allora sono pronta. Io sono pronta, dottor Lupotto, sono tutto orecchie. Questa era la sigla di Rischia Tutto, esatto, già cominciamo bene, insomma. Esatto, allora la prima domanda riguarda la sua situazione familiare. La devo chiamare signora o signorina? Sono felicemente coniugata, signora. Bene, e se non sbaglio ha anche due figlie, giusto? Quanti anni hanno e cosa fanno nella vita? Allora, 24 e 22, tutte e due si stanno laureando, una in una triennale, l'altra nella magistrale, però sono brave, al termine del loro percorso. Bene, quindi deduco che a portare a casa la pagnotta siate in due, lei e suo marito. Proprio così, le due ragazze sono, come si dice, a nostro carico. Bene, ci sono altre bocche da sfamare, nonni, altri parenti? No, c'è un'amica pelosa, che conta anche lei per il check-up finanziario? Direi di sì, ecco, con quello allora che costano le scatole di bocconcini per i nostri amici a quattro zampe, direi di sì. E poi avete una casa di proprietà o vivete in affitto? Casa di proprietà. Ci sono altri redditi oltre i vostri, ad esempio un'altra casa che possedete, che affittate, che vi garantisce un'ulteriore entrata mensile? Niente. Niente. Ok. Mm. È grave? No. No, no, certamente è un elemento che serve per capire una eventuale, diciamo, paracadute di residuale. Perfetto, certo. Sulla casa Lupotto ci fermiamo perché cerchiamo di capire come mai tutte queste domande. Noi ci possiamo chiedere, ma non si poteva andare subito al sodo e chiedere a Nicoletta quanti soldi è disposta ad investire? In realtà queste sono solo le prime domande di una buona intervista di pianificazione, molte altre ne seguono, perché ciascuna risposta è come una pennellata e tutte insieme contribuiscono a creare un quadro d'insieme. Certo, se Nicoletta non avesse avuto più di due figli a carico, se le sue bimbe fossero state più grandi e vivessero già autonomamente, quanto sarebbe cambiata lo spirito di questa intervista? Beh, due figli a carico genera una maggiore necessità di risorse nel breve, per i viaggi, acquisto magari di una nuova automobile per una neopatentata, per un'eventuale frequenza master, eccetera. Mentre nel caso in cui i figli siano già autonomi e i genitori ancora giovani, si possono perseguire obiettivi di più lungo periodo, come una buona pianificazione pensionistica. Se invece che una casa di proprietà Nicoletta con la sua famiglia vivesse in affitto o stesse ancora pagando un mutuo? Il canone di affitto, la rata del mutuo sono le tipiche voci di costo non comprimibili e quindi nella buona pianificazione bisogna tener conto di questo, soprattutto in cui l'unica fonte di reddito sia il lavoro e non ci siano altre rendite e quindi devono essere allocate quote di risparmio facilmente liquidabili in misura sufficiente a coprire queste spese almeno per qualche tempo nel malaugurato caso della perdita temporanea del lavoro. Nicoletta, hai imparato qualcosa in questa prima lezione della nostra scuola di risparmio? Sì, che dure, devo impegnarmi. Molto bene. E soprattutto devo cercare di risparmiare. Il tempo è finito, professor Lupotto, come dire, facciamo suonare idealmente la nostra campanella, ma non glielo vogliamo lasciare a Nicoletta e anche ai nostri ascoltatori un compito a casa, visto che a me l'hanno lasciato in tema alimentare? Sì, sì, direi di sì, lascerei tutti con una domanda. Per la prossima lezione provate a pensare a quale percentuale del vostro reddito è strettamente indispensabile per il mantenimento della famiglia, insomma per le spese vive. Si può fare sul reddito mensile o annuale. Le spese incomprimibili sono la rata del mutuo, la spesa per andare a lavorare, le spese per la pulizia, l'alimentazione, l'abbigliamento di base. Queste sono le vere spese vive. Le altre si può provare a catalogarle in un paio di categorie, spese per il benessere complessivo ma non strettamente indispensabili, per esempio un weekend, qualche serata al ristorante e poi i veri e propri lussi che ciascuno di noi si concede di tanto in tanto, per esempio un capo di abbigliamento molto costoso, un gioiello, una vacanza speciale. E quindi pensate di conseguenza alla percentuale che potrebbe essere messa da parte o investita rinunciando in parte a qualcuna di queste voci. Provate a calcolare queste cifre. Nicoletta, non mi pare un compito molto difficile. No, ce la possiamo probabilmente fare. Più facile che trovare la bacca di Goji, direi. E allora anche ai nostri ascoltatori, fate i compiti per la nostra scuola di risparmio, pensateci su, poi scriveteci su Facebook o su Twitter o anche al nostro indirizzo di posta fresco cuoredenari@radio24.it. raccontateci qual è la percentuale di stipendio indispensabile per la spesa della vostra famiglia e se c'è una parte che si salva. Professor Perna, lei fa orecchie da mercante in tutto questo discorso. Parlare di questo tema allena il cervello? Sicuramente sì, soprattutto il fatto di fare dei calcoli, di mettere giù dei numeri. Questo ci permette di capire realmente com'è la situazione. Benissimo, sei pronta per i compiti, Nicoletta? Io sono prontissima. Settimana prossima ti interrogo. Sarò preparata. Adesso siamo pronti a cambiare tema. Abbiamo addirittura scomodato John Lennon per introdurre il nostro prossimo argomento. Diamo una chance alla pace, fare pace o almeno provarci diventa in un certo senso obbligatorio in condominio, con la banca o in molte altre situazioni. Adesso vi spiegheremo perché, ma prima dobbiamo dare la soluzione del nostro piccolo test, Nicoletta. Allora, la domanda era, professor Perna, la domanda è la parte del cervello? La parte del cervello più umana che ci distingue dagli animali. Abbiamo in linea con noi Tina che ci chiama dalla provincia di Milano. Vediamo se ha la risposta esatta che le permetterà di ricevere a casa un biglietto valido per due persone per la mostra sul cervello che si terrà appunto a Milano. Dal 18 ottobre ad aprile. Tina, pronto? Mi dica la parola. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Ero già intenzionata ad andare a visitare la mostra del Brain. Bene. Allora, vediamo. È il mistero destro che io sappia. Non è proprio questo, non è proprio questo. Cerebrale. È valida anche. una risposta sola. La corteccia è giusto? Perché è la corteccia cerebrale, ma l'emisfero destro io lo improntavo un po' più su al femminile, perché è quello che ci distingue dagli uomini solitamente. Questo è verissimo, però per il momento rispetto agli animali anche noi uomini siamo un passo avanti. Ecco. No, è la corteccia sicuramente. E qui si aprirebbe un'altra puntata, esatto, di Cuore e Denari, ma lasciamo sicuramente stare. La corteccia frontale, quella è importante, perché è la parte che ci distingue. Bene, allora Tina la mandiamo lo stesso alla mostra, e al primo ascoltatore, che lo ripescheremo al 349-238-6666, che ci darà tutti gli estremi, arriverà anche il biglietto. Dai, regaliamolo anche a lei. Dai. Grazie Tina. Grazie. A presto. E allora noi andiamo al nostro approfondimento adesso, i prossimi 7-8 minuti, per approfondire il tema della mediazione obbligatoria. Saluto e ringrazio l'avvocato Nicola Salduti, esperto per il Sole Soldati, esperto per il Sole 24 Ore. Buongiorno avvocato, qua stiamo andando di fretta e quindi mi sono un po' inceppata con le parole. Allora, chiamateci intanto, lo dico anche agli ascoltatori, speriamo di riuscire a raccoglierne qualcuno. Qual è quella situazione della vostra vita quotidiana in cui non riuscite a mettervi d'accordo con qualcuno, con la banca, in condominio, in una questione di soldi in famiglia? Avvocato Soldati, perché parliamo oggi di mediazione obbligatoria? Qual è la novità legislativa che ha introdotto appunto tutto questo? Il decreto del fare ha reintrodotto nel nostro ordinamento dal 20 settembre scorso la mediazione obbligatoria in una serie di materie, ad esempio le controversie in materia di condominio, diritti reali, successioni, patti di famiglia, locazione, comodati, affitti d'azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, controversie bancarie e finanziarie, e rispetto al passato sono state tolte le controversie in materia di RC auto. Questa è una novità importante perché nella sostanza dalla quale si parla anche da un po', perché nella sostanza si vogliono un po' sgombrare, avvocato Soldati, i tribunali, no? Da molte cause che fanno perdere un sacco di tempo e alle quali non si arriva quasi mai appunto ad una soluzione. Assolutamente sì, la mediazione ovviamente avrà questo effetto deflattivo del contenzioso come voluto dal legislatore, ma ha delle potenzialità che sono notevoli e vanno ben al di là dell'alleggerimento del carico dei tribunali. Mediare in certe controversie era già possibile, mi ricordo ad esempio, ne avevamo parlato in passato anche a Salvadanaio, che esistono le camere di conciliazione della Camera di Commercio, c'è anche l'arbitro bancario, ci sono tante istituzioni. In che senso ora la mediazione è obbligatoria? Ci specifica di più in quali casi? Nelle materie che vi dicevo prima, forse le più diffuse: condominio, affitti d'azienda, locazioni e risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria. Prima di poter andare di fronte al giudice ordinario, le parti sono costrette a fare un tentativo di conciliazione di fronte ad un organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia. Lei lo sa che noi a Cuore e Denari parliamo soprattutto di denari in questa parte. Ci spiega quanto costa intraprendere un'iniziativa di questo tipo? Litighiamo appunto con il nostro vicino di casa per una questione che riguarda, che ne so, dei confini o altri problemi, appunto vogliamo andare a questa mediazione, quanto ci costa e soprattutto in quale ufficio si va? Certo, allora, per quello che riguarda il costo, c'è una tabella ministeriale che dà un'indicazione delle tariffe. Vi faccio un esempio: fino a 1000 euro si spendono 65 euro per ciascuna parte, più 40 euro più IVA di avvio per presentare la domanda di fronte ad un organismo di mediazione. E questi sono i costi. Può arrivare anche a costare qualcosa di più se la causa magari è economicamente un po' più impegnativa? Ma andiamo a uno scaglione diverso, quelle da 250 mila euro può costare fino a 1000 euro per parte, però laddove la mediazione sia obbligatoria viene ridotta l'importo, e così come se la mediazione non ha esito positivo ci sono delle tariffe molto basse. Ad esempio oggi hanno introdotto un incontro preliminare. In questo primo incontro, se le parti non si mettono d'accordo, non c'è nessun costo per le parti, possono andare di fronte al giudice direttamente. Se invece si celebra la mediazione ma non si raggiunge l'accordo, si spende dai 40 ai 50 euro. Nicoletta, hai un suggerimento per i nostri? Tra l'altro tu stai vedendo anche i nostri sms, le telefonate, sta arrivando qualcosa per l'avvocato Soldati? Sì, arrivano anche telefonate che sono. Ti leggo prima un sms. Sì. Ho chiesto un rimborso per danno da vacanze rovinate, dopo due mesi ancora non ho ricevuto risposta. Devo rivolgermi al giudice di pace o alla curia Mercatorum delle Camere di Commercio? Pierluigi, certo. Il danno da vacanza rovinata è una tipica situazione che può andare davanti ad un mediatore, avvocato Soldati? Assolutamente sì, anche perché il codice del turismo ha espressamente previsto che all'interno dei contratti e nei pacchetti turistici potrebbe essere una clausola di conciliazione e quindi la parte potrebbe utilizzare quella via tranquillamente. Sì, Nicoletta? Posso dare la parola a Gabriella che ci chiama da Roma? Certamente, assolutamente noi, sì. Noi sai che le donne hanno un canale, una corsia preferenziale. Gabriella? Eccomi qua, buongiorno. Ci dica. Allora, io ho un problema con il condominio. E allora, io con mio fratello abbiamo frazionato un appartamento, e il regolamento di condominio non lo vietava, tutti ci dicono che siamo perfettamente in regola con tutti i crismi, eccetera. Però qualche condomino la struttura nel regolamento di condominio e tantomeno rivedere, aggiornare le tabelle. Benissimo, Gabriella, siccome siamo in molto ritardo vado dritta all'avvocato Soldati. A quale mediatore si può rivolgere Gabriella? Può sperare di risolvere in questo modo la sua situazione? Certamente sì, si può andare in mediazione. Dato che è stata introdotta una competenza per territorio, deve essere nell'ambito della provincia dove si trova l'immobile, quindi dove si trova il condominio. Benissimo. Gabriella, ci scriva a cuoredenari@salvadanaio. cuoredenari@radio24.it e daremo delle risposte più dettagliate. Stamattina non ce l'abbiamo fatta. Nicoletta, però. E a proposito, vogliamo segnalare a Gabriella, ma non solo, che domani, 8 ottobre, esce in edicola col Sole 24 Ore uno dei quaderni dell'Esperto Risponde. Si tratterà di 8 volumi monotematici, il primo è proprio dedicato al condominio, con tutte le risposte chiave su come cambiano le regole dei condomini italiani a seguito della riforma e le novità appunto per tutto. Quindi lo consigliamo anche perché tra l'altro il condominio è fonte di stress. Di grande conflittualità. Assolutamente sì. Lo sa bene. Che è un litigioso in condominio e si vede già dal viso. Sto scherzando naturalmente. Ce l'abbiamo fatta Nicoletta, la prima è arrivata alla fine, quindi siamo pronti a salutare i nostri ascoltatori e rinviare a loro l'appuntamento a domani. Certo, a ringraziare 11. Filippa Oreggi, regia alla parte tecnica. E soprattutto Marco Lombardo. Esatto, e Laura Vanossi, i nostri angeli custodi di Cuore e Denari. Continuate a seguirci, a sostenerci, abbiate un po' di pazienza. Segnalateci anche se volete degli argomenti di cui parlare e noi raccoglieremo i vostri suggerimenti molto volentieri. Buona giornata, a da domani Cuore e Denari. Cuore e Denari.